María Morán, detto te Peppa, tiene libertad. Ti ricordi? Non ti ricordi? Comunque, signor Presidente, io questo fucile l'ho preso all'esercito per lottare contro l'esercito. E adesso devo restituirlo all'esercito. Chi ha vinto, la rivoluzione o l'esercito? Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas, Argomero, ven, parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas, Argomero, ven, parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación. Io questo fucile l'ho rubato all'esercito. E ma lo devo tornare all'esercito. Quindi non ho ben capito chi ha vinto. Ha vinto la rivoluzione, ha vinto l'esercito. Oggi? Cos'è oggi? Chi è oggi? Dov'è oggi? Perché è oggi? Oggi ridisturbiamo, a noi ci piace, ridisturbiamo una proiezione di un film, ridisturbiamo chi ci ascolta, ridisturbiamo l'etere, l'etero comunista, non lo so, ridisturbiamo un po' tutti. Visto che questo ci compete. Non so se sentite le vettovaglie, la gente che svettovaglia. Siamo sempre in un posto di cui non si sa il nome. Siamo sempre in un posto di cui non si sa niente, nemmeno se esiste, se non esiste, se è un luogo o un non luogo, come dice qualcuno. E io mi diverto a giocare con gli effetti del mixer, cioè in realtà io sono venuto solo per questo, quindi mi spiace se mi state ascoltando sperando che io dica qualcosa di concreto, di sensato. Oggi farò come papà, tiro cazzate, ma quanto non serio, e tutti mi crederanno, perché il regno dei cieli è dei poveri di spirito che non si fanno domande e non cercano le risposte, anche perché non si fanno domande. Quindi alla base risolvono i problemi. E uscita questa cosa, spirito e mondo. Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire, ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario ho scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa. che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccata. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima, e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto, con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia? Mai. E se viene fuori il 50 e il 50? Ecco, questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missili, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così. Per anni, questo che c'è, è tutto diverso, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50, talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece, quella gli va bene. Auguri, auguri. Se ti dimentichi di dicevo, cioè quello che volevo dire prima di vedere che il microfono era staccato, era che questa è un'altra puntata, o no? Non lo so se sono correlate. Sì, dai, sono correlate. È un'altra puntata di un taccuino, di un'agendina di appunti, diciamo punti libertari, chiamiamoli così. È in questo taccuino, qualche giorno fa, abbiamo inserito, nostro malgrado, perché è successo, non perché peraltro, abbiamo inserito una morte di Enzo Del Re, che è una cosa che ci è dispiaciuta abbastanza. Sulle nostre aie, nei cortili, nei campi, per le strade. Fuoco Savoia, fuoco Mussolini, fuoco monocolore, fuoco centro-sinistra, fuoco da sempre, fuoco dal principio, non solo dal 1 marzo a Portella delle Ginestre. Braccianti, contadini, pastori, gente del meridione, fuoco per voi! Hai fame? Emigra! Non emigri? Fuoco! Non hai terra? Emigra! Occupi la terra? Fuoco! Non hai casa? Emigra! Non emigri? Fuoco! Non hai terra, non hai casa, hai fame, ma non puoi emigrare! Arruolati nella polizia! È bello il meridione, paese caldo! È bello il meridione, paese caldo il meridione! Lo sai, operaio tedesco, lo sai, proletario lombardo! È bello il meridione, paese caldo il meridione! CGE di affittacamere torinese, CGE di studente svizzero! È bello il meridione, paese caldo il meridione! Dove viene perché il piccolo terrone anonimo? Da sempre il meridione, chi non emigra spara! Hai forse dimenticato bottegaio pugliese? Che vendi frutta e verdura nel centro di Milano. Nel sud paese caldo, chi non emigra spara. Hai forse dimenticato gelataio siciliano che hai aperto una cremeria nel centro di Torino. Nel sud paese caldo, chi non emigra spara. Lo sai operaio di Varese, lo sai sindacalista di Monza, che basterebbe abolire il lavoro straordinario nella sola Lombardia per dar lavoro a tutti gli emigranti stagionali. Nel sud paese caldo, chi non emigra spara. Ancora per molto tempo portuale genovese, ancora per molto tempo dovremo raccontare la storia del sud paese caldo. Nel sud paese caldo, chi non emigra spara. Ancora per molto tempo piangeremo retorica sulla valigia di cartone del piccolo terrone che dorme sulla panca della stazione. Nel sud paese caldo, chi non emigra spara. Ancora per molto tempo operai di Varese, ancora per molto tempo sindacalista di Monza, dovremo constatare che la coscienza di classe ha talvolta la memoria corta. Da sempre in meridione chi non emigra spara e chi non... Beh, i problemi tecnici ci sono sempre. Un pugliese un po' strano che suonava una sedia e prendeva come cachet il salario di un metalmeccanico, di una giornata lavorativa di un metalmeccanico. Ma una persona strana, abbastanza strana. Signora, voglio approfittare di questo palco per invitare qui sopra un artista che dovrebbe, credo, starci tutti gli anni. Signori, con grande emozione che ospitiamo Enzo Del Re. Berretto di lana rosso, occhiali, barba corta, rispetto a come la portavo un tempo, quantomeno. Una sedia davanti e comincia a picchiettare. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi si fa male e finisce all'ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Io ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono equamente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica che cos'è? La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Io per gli sfruttatori non voglio fare niente. Per la classe lavoratrice, alla quale mi onoro di appartenere, sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo. Il solo pensiero di fare qualcosa per Berlusconi già mi stanca, perché io... Con solo di Dagab metterà su un davanzato e si incontrava via chi ha portato la fatica. Io ti giuro la cito perché tengo una voglia. La fatica era buona, ma consigliamo un dottore, se la fatica era buona, non pregavano i preti, infatti i preti per non faticare, proprio per niente, predicano la rassegnazione e dicono alla gente, benedizione alla fatica. E a chi amo tengo una voglia, una voglia di fa niente. I mammici in catena, passati in vacanza, io fatico e fatico, e passo pure per stronza, vaffanculo e a chi amo. Tengo una voglia, una voglia. A fatica e cucuzza, come pesa e come puzza, a fatica e strapazza, d'accide che caga niente cazza. E poi dice che la fatica è onore, ma sì, ma scansa meglio ancora, beato chi con me sa riesce, a scansa. Tengo una voglia, una voglia di fa niente. Buonanotte, io lascio il microfono a chi deve cantare dopo di me. Questa era Enzo Del Re. Nel nostro taccuino, oltre a questo fatto, scusate, il nostro taccuino, c'era anche un altro fatto, non poi così fatto come alcuni, ma comunque un fatto. Il fatto fu di notte. E sarà di nuovo il 12 e il 13 giugno, perché in questi giorni voterete. Il 12 e 13 giugno alcune persone stravaganti si vorranno recare alle urne per abolire delle norme che, spostando due virgole, verranno riproposte pari pari da questo governo. Ammesso che raggiungano il quorum, è bene ricordare che difficilmente il loro voto verrà preso sul serio. L'istituzione del referendum è una forma di democrazia diretta e spesso anche volgare. Questa volta non c'è bisogno di portarsi il documento, che si rischia sempre di perderseli e sapete quanto ci vuole poi a rifarli. Se dite il vostro nome con sicurezza e convinzione al personale del seggio, credo che vi faranno votare lo stesso. Potete usare le schede che vi verranno consegnate al seggio, ma secondo me anche un foglio di carta a quadretti e un abiro vanno bene. Se non vi è arrivato il certificato elettorale, non richiedetelo all'apposito ufficio. Accettate questo fatto come un segno del destino e godetevi il giorno di festa. Ad Ariete, Pesce e Capricorno sconsigliamo di prendere l'auto domenica e lunedì. I primi due quesiti riguardano la privatizzazione dell'acqua. Se vorrete che l'acqua rimanga pubblica, fate pure, ma noi ci sputeremo dentro. Il terzo quesito riguarda la norma che prevede la costruzione di nuove centrali nucleari. Ricordate, gli incidenti accadono proprio a chi ha paura del nucleare. È come per i cani feroci: se gli mostrate di aver paura, vi attaccheranno. Considerate che stiamo parlando di centrali di terza generazione, sicure e affidabili al 100%. A meno che, ovviamente, non arrivi un terremoto di terza generazione. L'unico problema che non abbiamo risolto è quello delle scorie, ma quando salterà fuori, noi saremo già lontani. Infine, se credete tanto nell'ecologia, considerate che tutta questa carta per le schede referendarie è stata ricavata abbattendo milioni di alberi innocenti. Ribellatevi a questo scempio. Il quarto quesito riguarda la norma sul legittimo impedimento che permette al Presidente del Consiglio di non presentarsi ai processi adducendo scuse. Se volete cancellare la norma sul legittimo impedimento e costringere il Governo a impiegare altri mesi per fare una nuova legge ad personam, ma invece di risolvere i gravi problemi del vostro Paese, votate sì. ma poi scordatevi acqua e nucleare. La palese ostilità espressa dal vostro sì sarà comunque sufficiente a sollevare sulla cancellazione del legittimo impedimento l'invocazione del legittimo sospetto. Una volta compilata, la scheda può essere inserita nell'urna, ma potete anche lasciarla scivolare accanto, sarà, credo, comunque ritenuta valida. Oppure piegatela a forma di aeroplanino di carta e lanciatela. Qualcuno sicuramente la raccoglierà e la depositerà nell'urna. Si vota domenica 12 dalle 8 alle 22 e lunedì 13 dalle 7 alle 15, ma potete andare anche il 14 che c'è sicuramente meno gente. Comunque, da domenica a lunedì do una grande festa a Fregene, aperta a tutti, si mangia e si beve gratis. Io la butto lì, una politico, una professionale, sì. Se mi date una mano raga a cantare, per dire a tutti che il nucleare è una merda, sì. Dimmi invece a te che ti sembra, se il 12 di giugno non votiamo siamo tutti nella merda, sì. Spettami il discorso è l'essenza, devo ricordarmi, devo dire assolutamente sì. Voglio eliminare il nucleare, io penso che nessuna energia potrà mai rimpiazzare questo caldo sole naturale, questo sole caldo da amare. Voglio eliminare il nucleare, io penso che nessuna energia potrà mai rimpiazzare questo caldo sole naturale, questo sole caldo da amare. Contro il nucleare, oh, oh, voto sì, tu non me lo puoi vietare, voto sì, per chi non lo vuol fare, questo è un voto per tutti, basta speculare. Il 12 di giugno vacci a votare, di sì, contro il nucleare, non restare a casa, vacci a votare, di sì, acqua non si può comprare. Vieni con noi dai, vieni qui a dire di no scrivendo sì, bam bam. Vieni con noi dai, vieni qui a dire di no scrivendo sì. Ehi. Mi girano le palle come queste paleoliche, perché vedo il governo solo prostitute euforiche, tapponi incravattati, attori presi dalle comiche, lontani dalle nostre problematiche. Vedo già in lontananza un mostro, andiamo verso il disastro, corriamo tutti quanti a votare sì. Ripudio l'energia radioattiva, Chernobyl, Fukushima, sono esempi per cui è importante per sì. Dire no scrivi sì, il 12 scrivi sì, il 13 scrivi sì, per dire no tu scrivi sì, non nucleare scrivi sì, l'acqua tua scrivi sì, chi sbaglia paga scrivi sì, a giugno vai a scrivi sì. Sì, voglio eliminare il nucleare, io penso che nessuna energia potrà mai rimpiazzare questo caldo sole naturale, questo sole caldo da amare. Io mi tenevo dentro da un po', dobbiamo unirci convinti per dirgli di no, ma per dirgli di no dovrai votare di sì, perché contro il nucleare io la penso così. Ma come si fa a non capire che con il sole l'energia te la fai da te, ma come si fa a non capire che non c'è più tempo per certi giochetti, a me proprio non va un'altra storia che poi finisca come a Chernobyl in Giappone, se a te non va proprio come a me, a giugno vota sì contro il nucleare. Si può fare energia con risorse naturali, dal sole al vento all'acqua e dallo sterco d'animali, la canapa la fai con le tue stesse mani e loro vogliono fare le centrali. Anche se fuori c'è un gran bollore, forse è meglio se spegni il condizionatore. Dovremmo capire noi esseri umani che meglio consumare meno oggi che essere radioattivi domani. Da noi se piove un poco incidenti stradali e dalle impalcature tanti salti mortali. Arriva lo scirocco e affondano le navi, e se c'è un terremoto chi le placa a ste centrali? E mo so cazzi. Vieni con noi dai, vieni qui a dire di no scrivendo sì, bidi bam bam. Vieni con noi dai, vieni qui, bidi bam bam. Non ne faccio una questione politica, ma qui serve molta più coscienza critica. Voto sì e con le mie forze faccio propaganda per valorizzare il vento e il sole che riscalda. Oltre la crisi e la guerra non bastava già l'effetto serra, bang, non è bastato Hiroshima, né Chernobyl né Fukushima, dad, le scorie in sotterraneo, oppure navi affondate in Adriatico, è l'unica sicurezza che un piazza. Sì, il 12 di giugno vacci a votare, DC contro il nucleare. Non restare a casa, vacci a votare, DC. L'acqua non si può comprare, per una volta dai, vacci a votare, DC contro il nucleare. L'hai capito o no? Vacci a votare, DC, non farti fregare. È la cosa giusta, te lo posso assicurare. Non avrai rimorsi quando andrai a dormire. Io metto sì, sì, sì per dire no, no, no. Le centrali non le vogliono. Io metto sì, sì, sì per dire no, no, no. Le centrali non le vogliono. E allora voto, voto, voto, voto sì. Oggi è per il no, dimmi che stai a via. Allora voto, voto, voto, voto sì. Oggi è per il no, dimmi che stai a via. No, per il futuro dei miei posteri, per i miei contemporanei. A giugno non andrò al mare, ma a votare con un sì. Questo l'ho sistemato, sto bello. Ripeti? Aspetta, che bello, questa parte sopra, sistemata. Troppo bello. Ma in realtà non sopra nessuna parte. In che senso funziona? Un ruolo questo. Esatto. Perché non esistiamo. Perché non esistiamo, no, in realtà siamo solo il sogno di un cane, però vabbè, questo poi. Benvenuti. Oggi lo sto uccidendo, lo giuro. Ma mi sembra che andrò troppo in giro oggi. Io, anzi, mi sto limitando. E ti scippo la barba, visto che è il tuo tic preferito. Ecco, quindi ti potresti ritrovare senza barba, era una bella minaccia. Parecchio. Che giustamente chi non ci conosce non sa chi siamo, che comunque noi non esistiamo, però chi ha un'idea di noi e quindi ci conosce. Di noi stai parlando come radio? No, di noi tre, perché siamo tre. Uno non si è sentito finora, ma siamo tre. Detto che questo è un non luogo. Ah, vero, si è sentito. Però era una non voce la tua, quindi non contava. Mi esprimo poco. Voi cosa pensate del referendum? Che è necessario andare a votare domenica e lunedì. Per tutti i nostri figli, soprattutto. Ma come fai ad andare a votare due volte? Sarebbe la cosa migliore da fare. per raggiungere il quorum. Per raggiungere il quorum, sì. Pensi che almeno così ce la potremmo fare? Ma spero che ce la faremo anche senza utilizzare questi mezzucci. Traccheggi. Lei? Una discussione. Lei è al primo voto, sai? Al primo voto? Hai appena fatto 18 anni? No. No, da due anni a questa parte non si è votato. È importante, amore, domani. Dopo domani. Anche perché sono le ultime ore in cui possiamo dirlo così tranquillamente, senza paura che venga chiusa la radio. Senza paura? Che venga chiusa la radio. Ma ah, capito, tu stai parlando alla radio? No, tu stai parlando alla radio. Non se ne ero accorto. Io dicevo di me è troppo organizzato, cioè è troppo strano il discorso che sta facendo. Non si vergognare, tranquillo. Dice, ogni tanto parla. Niente, l'hai fatto vedere. Va bene, allora, visto che non sei ancora proprio così convinta di votare, proviamo. Il Giappone piange insieme a Yoko Ono, ma io mi commuovo solo per la Clerici che piange alla prova del cuoco. Scelta scomoda, dammi una proroga, il nucleare è sicuro come una scopata, col cazzo avvolto nel domo. Pace centrali senza nocciolo, olive senza nocciolo, non sono patatine fritte ma temi che scottano. No, non le patatine, sono i temi che scottano. La gestione delle centrali è stata data di Van Botta. Lo spettacolo al mondo, col mondo dello spettacolo, questa è dedicata al ministro Prestigiacomo. Cara ministro della dell'ambiente. Si faccia una centrale sotto casa, così diventa fluorescente. La prendo sul soffitto in camera quando dormo. La uso come lampadario, così mi illumina il soggiorno. Non faccia più il ministro e vado a fare film porno. Abbiamo capito che non ha un cazzo da fare tutto il giorno. Fare sto cazzo, non esiste al mondo un solo posto di stoccaggio. Ti trovi con le scorie sotto casa, con la carta di imballaggio. Italia, tasse da pagare, più tumore in omaggio. Metà del nostro debito pubblico e della Francia. Gli appalti alle centrali li hanno dati alla Francia. In Italia arriveranno solo scorie dalla Francia. Il resto, c'è il resto mancia. Cosa fare? Votassi per dire no al nucleare. Cosa fare? Votassi per dire no al nucleare. Cosa fare? Votassi per dire no al nucleare. Cosa fare? Votassi per dire no. Cosa fare? Fare no. Cosa fare? Cosa fare? Fare. Cosa fare? Cosa fare? Cosa fare? Fare. No al nucleare. Fare sì per dire no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. È meglio, così si sente di più. Ora non era un parere per gli altri, un parere tecnico, il mio giudizio personale. Bene, il personale è politico. So che cosa tutto ciò di cui si parla in questo momento si rivolge sempre alla politica, anche se è personale. Anche se è personale. Ah, io sinceramente non ho mai capito chi si definisce politico. Nel senso che comunque stai facendo una scelta. Quindi comunque c'è un atto politico in un certo senso, no? Anche l'anarchico è apolitico. No. O politico. L'anarchico non è apolitico. È politico. Esatto. Che sembra una scelta, no? Parla, parla, vogliamo sapere che cosa pensa la nuova generazione. The new generation. Cosa pensa dell'anarchia? Ah, libera, tranquilla, non ti inibire. Tanto non lo vedono che sei arrossita. Non ti rintraccio, tranquilla. Non sanno chi sei. Esprimiti. Sanno solo che è la prima volta che voti. Non sanno cosa voti. Quattro sì. Che cosa deve votare? Qua c'è una ragazza che è ben disposta a parlare. No, no, no, non è ubriaca, quindi non è. Io neanche sono ubriaca. Vabbè, però c'è persona e persona. Ok. Vero? Ascolto. Però questa è puntata molto sanpietrina. Voi non lo sentite, ma noi in cuffia sì, e soprattutto chi ci ascolta da casa nella sua cameretta, che ha messo pausa agli porn per ascoltarci. C'è un eco molto sanpietrino, perché abbiamo stabilito la barba di un'espressione che non ha importanza cosa dici, ma è importante come tu dici. E questa considerazione nasce, vive e muore. E l'uomo non divida ciò che Dio unisce. Siamo a Radio Maria? In un certo senso sì. Hai colto, pur essendo la prima volta che voti, hai capito. Hai capito. C'era una canzone che diceva, hai capito. Io la sento, è bellissima. Io in questo momento vorrei essere a casa ad ascoltarci. Com'è? Com'è? Ah, si sente? Il gerbero, sì. Che pesantissimo. Un pochino. No, io. No? Sì. Pesantissimo. Ah, pensavo che le casse fossero messe troppo piano per essere asgoldate. E allora, io in un certo senso sono contento di quello che è successo negli ultimi mesi. Perché si è stabilito che c'erano dei quesiti referendari per cui si sarebbe dovuto andare a votare. Non c'è stata alcuna campagna ufficiale, diciamo, negli organi di informazione che in teoria avrebbero dovuto fare questa campagna. E allora le persone hanno deciso, va bene, noi facciamo una campagna. Vabbè, come? E tutto sommato io penso che è riuscita la cosa. Io sono fiducioso. Sì, anch'io. Ora non voglio sbilanciarmi, però sono fiducioso. Sono abbastanza fiducioso che questa cosa riesca. Anche se sta cominciando a esserci l'effetto inverso, cioè sono persone che a furia di sentire tutti i discorsi martellanti ovunque, su internet, per strada, volantini, noi che abbiamo passato già 4 canzoni sul referendum e ne stiamo parlando una mezza, però non ne parliamo a modo nostro. Stanno avendo l'effetto contrario, l'effetto di rigetto proprio della cosa. C'è chi dice vaffanculo, non ci vado a votare, anzi ci vado e voto no. E noi diciamo va bene lo stesso. Va bene lo stesso, basta che si raggiunge il cuore. Esatto, perché alla fine il problema è quello, perché tanto la maggior parte di quelli che andranno a votare sono quelli che sono, diciamo, contrari e quindi voteranno sì. Esatto. Che questo è anche il bello del referendum. Devi dire sì per dire no. È una pratica democrazia diretta, non tanto pratica, come diceva Gabber, che abbiamo passato prima. Abbiamo passato un'altra canzone? Perché ho bisogno di cercarla. E quindi devo smettere di parlare. Quindi deve cominciare a parlare qualcun altro. Per forza? Sì. Secondo me adorano anche il silenzio. Il silenzio alla radio, sì, è una cosa molto particolare. Io non l'ho provato, cioè, perché quando sento persone che parlano alla radio, la cosa più insopportabile. Quando senti persone che parlano alla radio, quindi tu, cioè, perché l'ascolti allora la radio? Per la musica. Ah, per la musica. E come fai a sentire? C'è sempre pubblicità alla radio, se o parlano o c'è pubblicità. Quindi se tu guardi te la cerco io. Come? Se tu guardi te la cerco io. No, parla tu. Puoi fare anche versi, tanto alla fine, diciamo, non è che Radio Maria, quindi deve essere professionale. Io provo a raccontare Barzelletta, non sono Barzelletta. Anche perché in realtà una canzone l'avevamo preparata. E allora vi faccio un indovinello. Che? Cosa forma una lumaca sopra una tartaruga? La risposta dopo la canzone. Alla mattina mamma mia. Oh, che tormento. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, mamma mia. Oh, che tormento. Per esempio il l'indovinello, che abbiamo stabilito essere basato sul fatto che sia la tartaruga che la lumaca sono lente. Ma ora perché una lumaca è il la scala mobile? No, perché una lumaca dovrebbe stare su una tartaruga? No, cosa formano una lumaca sopra la tartaruga? Cosa forma? No, non lo so. E un albergo a ore, non so, sto una lentezza, no? 45 giri, no, un casino, 33 che è più lento, un val, Zanzibar. Dai, dillo ormai. Mattia Bazar. No. Io ho un indizio, sono due. Sì. Come sono? Due. Come sono? Una grossa e una piccola. Prima una verde. Lenti. Ah, gli occhiali. No. Due lenti. Beh, due lenti a contatto. Una mattina. Ella. Mimimi. Chi si ricorda di Mimimi? Nessuno si ricorda di Mimimi? No. Mimimi. Gli abitanti di Marte. Ah, fascisti su Marte. I fascisti su Marte. Gli sassi a cui hanno messo le antenne. Hanno fatto gli abitanti di Marte. E li hanno soggiogati. E li hanno vinti e battuti. In questo taccuino, perché questa non è una trasmissione, ma è un taccuino, un canovaccio di appunti libertari, abbiamo inserito anche la conferma della sentenza a 3 anni e quanti mesi e mezzo, tra 3 anni e 6 mesi, inflitta ai poliziotti che nel 2005 circa hanno pestato a morte Federico Aldrovandi. E effettivamente Orwell ci può stare in tutto questo, no? Ci sta. Ci sta. E allora ci sta. Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tune to always makes a fire. Quindi a breve staccheremo. No? Per quanti ci stanno ascoltando. Sì? Ma non è questo importante. L'importante è come ci ascoltano. Con le orecchie. Perché importante non è ciò che dici, importante è come tu dici. Perché altrimenti la Chiesa Cattolica come farebbe ad avere così tanti adepti? O Scientology? O tanti tanti altri? Anche perché, Dio prete, se tu non riesci a capire qual è il senso della vita, no? Non è più onesto dire non lo so, invece che inventarti un Dio per poi non riuscire a spiegarla lo stesso, perché dici la vita è un mistero, Dio ha un suo progetto che noi non possiamo capire. Cioè, che cazzo hai fatto allora? Cioè, se tu ti inventi qualcosa che ti serve, cioè che ti risolve il problema, va bene, ma se devi reinventare il problema spostandolo a un Dio sadico che ti ha fatto come lui, ma più stupido, qual è il senso di tutto questo? Non saprei, ho bevuto un bicchiere di vino di troppo per poterti rispondere. Anzi, il bicchiere di vino di troppo è importante in queste circostanze. Il bicchiere di vino? Di vino? Appunto, proprio perché di vino aiuta. No? Aoia. Aoia. Ebbene, miei cari stronzi che ci state ascoltando. Mirko, vuoi venire a salutare? Come? Lo stronzo, uno. Quegli stronzi che ci stanno ascoltando, perché noi ora... chi? È qua. Cazzo, nascondiamoci. Allora, mettiamo una canzone e cerchiamo un nascondiglio. La rivoluzione, non è... un semplice avvenimento. La rivoluzione, è una conquista quotidiana. Cina, Cuba, Algeria, Russia, Cile, Vietnam sono esempi di vittoria della nuova civiltà. La rivoluzione è la distruzione dei manicomi, degli ospizi e le prigioni. La lotta continua, contro ogni sfruttatore. Contro il servo e il suo padrone. La lotta continua, la lotta continua contro ogni qualunquista. Cina, Cuba, Algeria, Russia, Cile, Vietnam sono esempi di vittoria della nuova civiltà. La rivoluzione, la rivoluzione non è un semplice avvenimento. La rivoluzione, è una conquista quotidiana. La rivoluzione è una conquista quotidiana. La rivoluzione è una conquista quotidiana. La rivoluzione, panico da radio, non dico nulla. Però Uglio, tu potresti suonarci qualcosa per chiudere. Basta, parla tu, sei emozionato. Per quella ragazza che diceva diceva prima che odia sentire le voci alla radio, anziché parlare suona la chitarra. Niente, stasera non siamo riusciti nel nostro intento. Il nostro intento era disturbare il film. Forse un po' ci siamo riusciti. No, non penso. Una cosa che sotto ci hanno sentito. Specialmente da che suoni. Anche perché credo che siamo in due a guardare questo video. Niente? Niente. Silenzio. Vabbè, questo è una non trasmissione, quindi anche un non discorso. Esatto, come sempre. Questa chitarra è orrendamente scordata. Tuttavia, il pezzo è giusto con la chitarra scordata. Chi era questo? Non saprei. Come non saprei? I fichi. I fichi. I fichi. Mettiamo i fichi. Qua giusta punizione ai pochi ascoltatori. I fichi. Allora, tu suona. Anzi, tu non suona. Io non suono, io silenzio. Tu non suona e io cerco i fichi. I fichi. I fichi. Non i fichi d'India, ma no, i fichi cuccini. I cuccini. Anche se non so se è i fichi o un'altra di opera buffa, perché non mi ricordo, ma penso che sia questa. Scopriamolo assieme. Io non capisco la gente. È iniziata direttamente con tutta la premessa. È un argomento di pregnanza, ne parlano tutti i giornali. I fichi. È un problema che... Lo so, mi vergogno come un ladro, infatti saranno 5 minuti, insomma, che non ci piacciono i fichi. Esiste veramente. L'hanno detto persino. Ma lo sapete. No. Allora, sì. Allora, io l'ho fermata per un motivo molto semplice. Perché abbiamo i fichi e abbiamo anche i grauti e dobbiamo scegliere. Perché Guccini. Perché Gucci, brutta stronza, sali tu, noi siamo in radio. Perché nella versione che ho io di I Fichi, nell'introduzione lui parla questa canzone, dicono che sia stata copiata da un'altra canzone che si chiama I Crauti. Quindi esiste I Crauti. Quindi I Crauti esiste. No, non è di Guccini, ma è di Monica Vitti. Ma Guccini non so chi sia. La cover dei Crauti di Monica Vitti. Chissà, vogliamo prima o poi ascolteremo a sentire i Crauti. No, ascoltiamo i Crauti. La canzone onestamente come testo non è un granché, però ci ho messo tutta una grande overture musicale, quindi attendete, vado ad eseguire l'overture. L'overture mi è riuscita un 60%, che non è una brutta percentuale, perché... No. È che io a questo punto avrei dovuto fare un do, ma il do non è una nota facile, il do è una nota... Beethoven, che era Beethoven, il do ci prendeva un 80% delle volte, anzi ha scritto una decima sinfonia senza do perché mi fa rabbia, ma la società, gli amici delle sette note non gli ha mai permesso di pubblicare. E il tempo di questa canzone è un tempo era Ah, un momento, bisogna spiegare a quelli di sotto che il microfono che dovrebbe essere qui è qui, il microfono dovrebbe essere qui e qui. E cioè, il fatto che qui in italiano si dica nello stesso modo complica orrendamente le cose, però vabbè, insomma, il tempo un tempo era un valzer moderato, ma col passare del tempo, e te dai, ha acquistato una precisa coscienza politica, è diventato un valzer decisamente di sinistra. Virtuosismi? Qua vorrei l'applauso. Temo che questa chitarra sia orrendamente scordata, ma il pezzo è giusto con la chitarra orrendamente scordata. La canzone potrebbe ricordare a qualcuno, la canzone si chiama I Fichi, potrebbe ricordare a qualcuno I Crauti. I Crauti è una canzone scritta tanti anni fa, una canzone, per dire, che faceva: io non capisco la gente. Te fai sì sì con la testa, la conosci? È la tua canzone preferita. Te a un certo punto vai col tuo moroso e dici: senti, sono I Crauti la nostra canzone. No, un momento, c'è la gente così, Io non capisco la gente. Questo è il valzer con una precisa coscienza politica, però non è. Cioè, c'è un. Lei mi dica, ha una. Che non ci piacciono I Crauti. Ecco, la mia canzone è molto diversa. Molto fa. Io non capisco la gente, lo so, va bene, dall'altra parte, insomma. Che non ci piacciono I Fichi, già diversa, già diversa. L'han detto persino gli antichi, sia I Fichi e da basso I Bignè, virtuosismo. C'è questo sol che è un mi bemolle, proprio. Comunque. Lo abbassiamo? Lo abbassiamo, ma sì. Ma sì. Seconda strofa nella quale si va a spiegare l'ontologia del fico, ovvero la vera, reale essenza del fico, che non è da tutti, insomma. Cioè, il fico. Notate che quando faccio il virtuosismo vi abbasso con la spalla sinistra perché mi viene più facile. Peccato che nel disco non lo vedranno che mi abbasso con la spalla sinistra. Cosa viene adesso? Fichi son quella cosa pregevoli assieme al prosciutto, mangiabili in parte o del tutto, da soli o sia pure in alcun fiubadi, come dicono gli anglosassoni. Mangiabili in piedi o a Verona, a letto, al mattino, in stazione, dovunque da gioia. Il melone, questa è un'altra canzone. Mangiabili inverno d'estate, e fino l'autunno inoltrato, ma allora c'ha il nome cambiato, e si chiamano Marron Glacé. Ma quando è maturo e sugoso, E allora il momento del fico, che buono sì che non vi dico, o rabbia che ormai l'ho già detto. La canzone, vi sarete resi conto che è di grande serietà e di grande impegno. È una canzone scientifico-morale e in questa strofa io vado a spiegare le prove scientifiche della beneficità del fico per gli esseri umani. Vai! L'ho detto prima di Beethoven che non... Se qualcuno mi tenesse un dito qua... Il fico fa bene alla vista, stupiti. Vi vedo stupiti. Gli uccelli ne mangian quintali e quasi nessuno ha gli occhiali. Ma questo è un segreto di pochi. Ma questo è soltanto uno scherzo di quello che giova in salute. Su in Svezia, che ha larghe vedute anche sui 30-40 centimetri, i fichi la mutua li dà. Un applauso per cortesia. Se ce ne fosse bisogno, successive prove della beneficità del fico in natura. Te prova ad andare sotto un camion, oppure va sotto un tramvai. Poi vai sotto un fico e vedrai di quanto starai tu più ben. Controindicazione. Ma tenti a non far come quello che in preda a pensieri lubrichi andò sotto un camion di fichi. Non puro può far molto mal. Con grande vostro e mio dolore, soprattutto vostro, ma anche mio, siamo giunti al finale che vi spiegherà la parte direi della canzone. Ma ormai sono giunto alla fine e vi ho visto d'accordo e contenti. Fra un fico, un cazzotto nei denti, ognuno ormai sceglie il soprano. Allora. Non è tanto per me quanto per i fichi. E allora noi adesso vi salutiamo. Quando tornerete a casa, date ai vostri figli una carezza e dite loro: quella è la carezza del Papa. Chiudiamo così? Non lo vedi che sto facendo un miracolo? Quale? È vero, c'è Caterina. E non sta parlando, è questo il miracolo. Da Caterina, parla. Lo wishi. Lo in inglese. Sì, io parlo solo in dialetto. Questa era Daniela che ha rotto qualche piatto. Io parlo. È finito il film? No. Però ah, quindi allora non possiamo continuare a disturbarlo. Cosa? Il film. No. Soggetto, predicato, complemento oggetto. Vuole fare vita. Ma lei... Vita. Cioè, perché siccome a Londra non c'è un cazzo da fare la sera. Io sono sempre a cazzo. Ma noio. Ci sono troppe donne. È disponibile. Addirittura. Troppo concorrenza. Ma no, non valeva bene. È perché non ci provi con le donne, scusa. E te che hai detto che non ci avrei provato? il fatto che dici che ci sono troppe donne, non sarebbero troppe se ci avessi provato. Ma no, non possiamo fare una serata a cucini. Ma infatti non è una serata a cucini. No, io sono tutta, non te la posso fare. No, infatti, guarda, c'è quella stanza con quelli, e noi lo sappiamo, lo so. Adesso lo sanno anche gli altri, che ancora non sapevano come ti chiami. Lei si chiama Caterina, è una delle tre parche. Cioè tu lo sai che tutti sanno che era questa cosa. Attenzione. Quindi andiamo sotto? Sì. Andiamo? Sì, ma io penso che comunque tutto sommato i miei 25 anni me li porto bene. La sai che è Rodolfo. Cioè, vabbè, ho 25 anni, però, cioè, ho visto anche i vecchi. Va bene, io purtroppo non trovo la versione che volevo. Basta, cucini. Vabbè, stiamo chiudendo, è l'ultima canzone. No, chiudere. L'ultima chanson. No, no. Liaison. Come dire liaison? Non lo sai, no? Perché parli inglese. Poi mi no, meglio di no. Instead, we want to finish this transmission. Broadcasting yourself. With a song from Francesco Guccini. Giano? I think that Francesco Guccini is the greatest storyteller, Italian storyteller. The greatest. Storyteller. No. She's very clever. She's a punk rocker. Sheena is punk rocker. Sheena. Nonna. Le tue citazioni, io non le conto. Niente. Che You don't count my citations. No. Citations. Extensions. One nation. Station. It's family in New York. No. No, noi abbiamo occupato. No, manco, noi abbiamo occupato lo spazio che Radio Cube di solito occupa su Radio Matria. Quindi, cosa siamo? Niente, assolutamente niente. Siamo una non trasmissione a punti libertari, diciamo così, in libertà. Punti libertari in libertà. Diciamo un po' quello che cazzo ci viene pare. E chiudiamo come cazzo ci pare, non con Guccini. Va bene, allora non chiudiamo con Guccini, ma chiudiamo con L'Avvelenata. Che è universale. Che è universale. Io fascista. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa. Siano stati libri o il mio provincialismo è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ha voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se sono d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie, di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista.